quello della pasta. Guacciatillo tagliariel a di sala da ruoto. Cioè, il ruoto, si fa la salsa, tagliarella, pasta, capito? E guacciatillo significa, guacciatillo, cioè, condisci la Com'è? tua salsa, guacchia, guai, vai, macchinucci, guacciato. Hai sentito mai queste parole? Sì. Guacciato. Allora si dice guacciatilli in napoletano, sai, i detti napoletani che se va bene così, ti ho detto un tesoro, sai, non lo potevo dire a nessuno.